9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, buon venerdì 30 ottobre. Il tema della puntata che tra poco inizierà è questo terribile filmato che non so se abbiate visto, ma circola da 2 giorni sui siti dei giornali, è stato visto parzialmente anche ai telegiornali. Che cosa riguarda e cosa documenta? L'assassinio fuori un bar nel Rione Sanità a Napoli di un malavitoso, l'assassinio che avviene da parte di un killer a freddo, volto scoperto, sorriso sulla labbra, resta documentato, tutti passano, ci interrogheremo su cosa vuol dire uccidere così, del mondo delle immagini che restano a volto scoperto, insieme agli osservatori e ai protagonisti della lotta alla malavita a Napoli. A tra poco, chiamato 00 24 00 24 al Nazionale Radio. 9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 30 ottobre 2009, da Oscar Giannino qui in studio. Ci occupiamo oggi di questa particolare scelta che hanno fatto i magistrati a Napoli, quella di rendere pubblico, di diffondere tra i siti di informazione, mettere in rete, pregare i giornali, i telegiornali di mandare in onda le immagini che documentano questo assassinio che molti di voi avranno visto su questo, in queste terribili immagini che girano da 2 giorni appunto sulla rete. Che cosa testimoniano? Un'esecuzione avvenuta fuori un bar a Rione Sanità a Napoli e un omicidio avvenuto nel maggio scorso, quindi molti mesi fa, è l'omicidio di un malavitoso, si chiamava Mariano Bacio Terracino, aveva 53 anni, una fedina penale abbastanza lunga e corposa, rapinatore, veterano della banda del Buco. Negli anni 70 aveva preso parte a un sequestro clamoroso, quello del figlio del senatore, allora leader del Partito Socialista, Francesco De Martino, Guido De Martino. Quindi, insomma, un personaggio ben noto alle forze dell'ordine, ai magistrati. Fumava, come si vede in questo filmato, una sigaretta fuori un bar, l'antico caffè delle Vergini, l'antica caffetteria delle Vergini, un bar a Rione Sanità. Queste immagini testimoniano che c'è un palo a fianco appoggiato alla macchina distributrice automatica di gelati fuori il bar, che pochi secondi prima dell'arrivo di un nuovo soggetto sulla scena abbandona la sua funzione di osservatore della vittima designata che sta fumando una sigaretta. Poi arriva un ragazzo con un bomber, un giubbotto leggero, un cappellino a visiera neanche troppo calcato sul volto, perché il volto è assolutamente scoperto, entra nel bar, si gira intorno e poi con decisione riesce nel varcare la porta, mette mano alla pistola, tira fuori un colpo alla spalla e, mentre la vittima designata cade a terra, un colpo alla nuca. Tutto questo con un sorriso sulle labbra, e l'omicida poi va via, e il continuo del filmato documenta la reazione dei cittadini intorno. C'è una donna che scavalca il cadavere, c'è il venditore di sigarette di contrabbando a fianco che smonta il banco e se ne va, c'è un'altra signora che dopo un minuto e qualcosa sposta il corpo e poi va via. Insomma, queste documentazioni successive all'omicidio ci dicono anch'esse molto, e su questo ci interrogheremo, ma intanto cominciamo con una domanda che facciamo direttamente a Gian Domenico Lepore, procuratore capo di Napoli. Perché, buongiorno dottor Lepore, perché i magistrati hanno deciso a mesi di distanza di rendere noto questo filmato? Deciso perché sono passati circa 6 mesi dall'episodio, non abbiamo avuto la presentazione o comparizione o quantomeno una notizia da parte di nessuno, quindi siamo allo stato al buio circa l'identificazione di quell'uomo. Eppure è avvenuto in un centro abitato, affollato di gente, e sì, è possibile che non sia conosciuto da tutti, ma quantomeno un tam tam di voci dovrebbe già essere in atto, ma nessuno è venuto da noi. Se non c'è collaborazione da parte della gente, difficilmente possiamo portare avanti le nostre battaglie soltanto fidando sulle forze dell'ordine e sui mezzi a nostra disposizione. Purtroppo ci dispiace, ma siamo stati costretti a fare quest'ultimo tentativo sperando nella collaborazione di qualcuno. capisco naturalmente la paura, il timore di parlare di chissà qualche cosa, ma assicuro che a noi serve anche un input anonimo, ma purché sia un qualcosa di reale, di concreto e non di fantasioso per poter fare le indagini, e l'anonimato potrebbe essere ben tutelato. In questo caso significa che le forze dell'ordine, dopo mesi e mesi di riflessione e indagini su questo materiale documentale, né il palo, per così dire, né l'autore materiale dell'omicidio, cioè sono totalmente volti, totalmente sconosciuti alle forze dell'ordine. Evidentemente sì, perché altrimenti l'avremmo identificato attraverso le fotosegnaletiche e così via. Evidentemente qualcuno nuovo. Però c'è sempre, quando soprattutto nei vicoli di Napoli, nella stessa Napoli, un tam tam di notizie, quantomeno di qualche notizia, anche se molte sono false, ma qualche notizia vera esiste sempre. In questo caso abbiamo silenzio assoluto, quindi siamo stati costretti a ricorrere a quest'ultimo tentativo nella speranza che qualcuno si faccia avanti anche nell'anonimato. Posso chiederle un particolare che io non riesco molto bene a comprendere? Siccome nelle immagini, quando l'esecutore dell'omicidio spara il colpo alla nuca, la mano sinistra fa questo gesto delle corna, ma questo gesto delle corna può voler dire qualcosa della sua identità, del significato del delitto che sta commettendo? Cioè, dal suo punto di vista come procuratore capo, per tutte quelle che ne ha visto in anni e anni e anni del difficile mestiere che compie, come lo interpreterebbe quel gesto? Ma io ora non so se l'individuo teneva soltanto due dita delle cinque dita che lei tiene e porta la mano, ma comunque se sono soltanto corna potrebbe essere anche superstizioso, e quindi naturalmente, ma non è un segnale o un segno identificativo specifico, perché forse uno è la prima volta che si vedono queste corna al momento di compiere un omicidio. E quindi non gli attribuiamo particolare importanza? Assolutamente non possiamo. Senta, non è una caratteristica di qualche killer che va girando e che ogni volta che spara potrebbe anche darsi, ma a noi allo Stato non risulta, perché se risultasse una cosa del genere automaticamente l'avremmo identificato. Senta, dottor Lepore, siccome poi la lasciamo perché sappiamo che ha molto da fare, le faccio un'altra domanda. Il seguito del filmato, cioè dopo che l'omicidio avviene, la reazione della gente intorno, che cosa le dice della sua città? La mia città è quella che è. Questo è un episodio che potrebbe essere fatto in qualsiasi grande città, sia italiana che estera. Purtroppo questa è la situazione, soprattutto oggi che il crimine organizzato porta bande di criminali contro altre bande, e quando oggi si è sviluppato il crimine transnazionale, quindi il valore della vita si è notevolmente purtroppo ridotto, e purtroppo qua a Napoli ci sta abituando all'omicidio come un fatto quasi normale. Lo dico a Napoli, ma lo dico in genere per tutte le altre città. Quando naturalmente nelle grandi città l'omicidio non va in prima pagina, ma va già in terza, quarta pagina, è un bruttissimo segnale da parte della gente. Grazie, dottor Lepore. Continuiamo la riflessione sia sulla scelta dei magistrati che su quanto testimoniano queste terribili immagini, e lo facciamo con il direttore del Mattino, Virman Cusenza. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi. E con Raffaele La Capria, scrittore straordinario, appassionato difensore della sua città del Mezzogiorno contro tutti i liquidatori, diciamo così, della grande civiltà del Sud. Buongiorno, La Capria. Difensori, spesso ho avuto rimbrotti perché sono stato anche accusatore. È vero, caro, è vero, Giannino. È vero, è vero, è vero. Direttore, dal punto di vista innanzitutto del bilancio più recente della terribile lotta alla camorra a Napoli, siamo a 52 vittime dall'inizio dell'anno. Come presidio di osservazione, il Mattino, che ha offerto anche purtroppo un contributo di vittime a fare il proprio mestiere, per informare, per fare indagini, inchieste giornalistiche contro la camorra, ma dal vostro punto di vista come stanno le cose? Siamo in una fase alta o bassa del fenomeno di contrasto da parte dello Stato verso la camorra? Siamo in una fase alta del contrasto sicuramente, per fortuna, lo dicono i numeri, il numero anche degli arresti è aumentato nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni in particolare. Io ho davanti a me i dati che la Commissione Antimafia ha ricevuto per un'indagine ad hoc del Censis e quindi insomma dei dati abbastanza certi. Da questo emerge un quadro comunque raccapricciante della situazione della criminalità in Campania, perché è vero che lo Stato sta facendo il suo dovere, almeno per quanto riguarda l'opera di contrasto, lo vediamo appunto negli arresti, lo vediamo anche nelle operazioni giudiziarie, lo vediamo anche in mosse come questa della Procura, che sicuramente fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile realizzare per certi versi, però è anche vero che la realtà è quella dei duri numeri e ci dice che gli omicidi, per esempio, nel 2007 sono stati 85 e 10 anni prima erano 107, cioè significa che in 10 anni praticamente c'è un calo abbastanza ridotto, bassissimo, di omicidi, tra l'altro omicidi di camorra, e quindi insomma, come dire, quelli più gravi, più allarmanti. C'è un boom addirittura di usura e riciclaggio, che di fatto sono i serbatoi economici per l'attività della camorra, e quindi questo ci fa pensare che tutt'altro che al disarmo dei clan, in particolare del nucleo poi più forte, ma non è solo quello, dei casalesi naturalmente. L'aumento appunto degli incendi dolosi, che sono aumentati del 322,8%, con punte del 730 a Salerno, 727 ad Avellino, 652 a Benevento, cioè tra l'altro stiamo parlando di province che per loro tradizione, a differenza di Napoli, non conoscevano primati del genere. Insomma, c'è un quadro onestamente dire allarmante è poco. Ora mi rifaccio a quello che diceva prima il procuratore Lepore. È vero, c'è la assuefazione, è vero, l'omicidio finisce in terza pagina, ma è anche vero che la risposta che il procuratore sollecita giustamente con la diffusione del video è quello di quella signora che, passando davanti al cadavere del boss appena ucciso, solleva la testa quasi fosse uno scalpo per cercare di riconoscere chi è. Un gesto che la dice lunga sulla sua fazione, la dimestichezza, l'abitudine, quasi il fastidio di una donna, di una persona abituata evidentemente a scene del genere molto frequentemente. A tutti voi che siete in ascolto, ci chiamate per favore per dirci, quantomeno se sapeste qualcosa, qualunque città viviate, soprattutto se siete a Napoli nel mezzogiorno, ci chiamate per dirci se sapeste qualcosa a proposito di questo, se davvero fareste una chiamata in questura, se davvero fareste tutto quello che è necessario per manifestare alle forze dell'ordine e ai magistrati gli elementi che anche solo vi sembra di poter ravvisare nei tratti di qualcuno dei due protagonisti di questo delitto. Vi chiedo di dircelo, perché la domanda sottostante a questa scelta dei procuratori e anche il dubbio, avete letto, c'è un dubbio anche nelle parole che ha pronunciato il procuratore capo di Napoli. Il procuratore capo di Napoli a un certo punto si è quasi scusato della scelta che hanno compiuto i magistrati, come dire, ci rendiamo conto che è una cosa estrema chiedere una cosa di questo genere ai cittadini. Ecco, a mia opinione, quando gli stessi magistrati hanno un dubbio così forte dal dovere, non dico quasi chiedere scusa, ma dal dover presentare come un gesto così estremo l'appello alla cittadinanza perché chi compie le indagini ed è al buio veda un pochino di luce, secondo me ci dice terribilmente troppo della condizione in cui viviamo. E non voglio in questo momento criminalizzare Napoli. Apposta ho chiesto al procuratore capo, ma Napoli lo so, e lui ha risposto, lo avete sentito, no, guardate che il problema ci sarebbe dovunque in Italia. La Capre, anche secondo lei questo problema, cioè il problema di una scarsa collaborazione, di paura e insieme di abitudine e di assuefazione, sarebbe uguale in tutta Italia? Beh, a Napoli siamo andati molto oltre tutto quello che si poteva immaginare, lo sappiamo già dal tempo dei rifiuti, ma anche prima. Siamo andati oltre quello che si poteva immaginare. Vabbè, uno mi può dire a Napoli, ma anche nel mondo siamo andati oltre quello che si poteva immaginare. È vero, però le scene che vediamo ogni momento in televisione, anche in ogni film, no, appena apriamo la televisione c'è una pistola che spara a qualcuno, quindi diciamo così è diventato una specie di luogo comune vedere una scena come quella che abbiamo visto a Napoli, però lì c'è un fatto diverso che ti fa venire i brividi, è l'idea che tutto quello è vero, non è una finzione cinematografica, è una cosa che è spaventosamente vera. E che quel killer ora sta camminando nelle strade di Napoli senza magari pensare più a quello che ha fatto, perché lui non è dotato neppure di una coscienza, è come un robot creato dalla società napoletana di questi ultimi tempi, e quello è orrendo e quello fa paura. Io vedo le cose, diciamo così, da un punto di vista più da scrittore, meno poliziesco, a me sembra che insomma uno debba pure immaginare questo criminale che se ne va in giro per la città, uno debbe pure immaginare la madre di quell'uomo che è stato ucciso, di quel ragazzo, non so se è un uomo, un ragazzo. È un uomo di 53 anni. Allora sì, la madre, la famiglia, la moglie, pure loro fanno parte della tragedia, non se ne parla, però pure loro avranno visto quel video, pure loro avranno tremato vedendolo, no? E in più... a me sembra che ci fosse un dubbio se l'azione che avevano fatto di mostrare questo atto era giusto oppure no. Per me è giustissimo sbattere in faccia alla città quello che sta succedendo. Guardatevi nello specchio, guardate che sta succedendo, perché nessuno reagisce? Io capisco che la domanda perché nessuno reagisce fatta a Napoli non è come una cosa... diciamo così, di civile obbligo di ogni cittadino, perché uno a Napoli per fare queste, per avere queste reazioni deve essere un eroe, e gli eroi non si trovano dovunque. Dico un eroe perché uno potrebbe pure decidere per conto suo, vabbè, faccio l'eroe, mi espongo alla vendetta, faccio tutto, ma se il pericolo non è tuo soltanto, è che ti ammazzano la figlia oppure ti ammazzano la moglie, allora diventa molto più problematica la cosa, perché io posso fare l'eroe, ma non posso far l'eroe a mia figlia, a mia moglie, a mio padre, a tutti i miei parenti. Capito qual è il problema? Capisco benissimo. Devo dirle anche, la Capra, che moltissimi degli sms che ci arrivano sono sms che le danno proprio ragione. Per esempio ce n'è uno che dice: non si può chiedere a tutti di essere dei pepino impastato, cioè degli eroi che poi si sacrificano. Altri sostengono: in un paese civile i cittadini informano le autorità, non è un problema solo di Napoli, è un problema di tutta Italia. Però stavolta è diverso, sì. Perché stavolta è stata sbattuta in faccia alla città una persona. È un killer, un palo che si vedeva molto bene, e che cavolo, non può venire fuori una telefonata anonima che dice senza pericoli, senza niente, sì, io l'ho visto nel punto tale, credo che sia il tale, ma deve essere tale la paura che insomma... Esattamente, ora la pubblicità, poi iniziamo subito con le vostre telefonate che ci rispondono alla domanda, per favore ci dite se... chiamereste anche solo anonimamente, visto questo filmato, per informare la polizia e i magistrati di quello che vi sembra di vedere? Pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di questo video che la Procura di Napoli ha reso disponibile alle fonti informative, pregando di mandarlo in onda, di farlo vedere a tutti i cittadini. Il video che documenta l'assassinio di Mariano Bacio Terracino, 53 anni, malavitoso, napoletano, fuori l'antico Caffè delle Vergini, Rione Sanità a Napoli. Assassinato in pieno giorno di fronte a moltissimi testimoni da un basista e un omicida a volto scoperto, che però dopo molti mesi forze dell'ordine e procura non riescono a ricondurre a nessuno dei tanti fili che pure facevano la trama e l'ordito della vita del malavitoso, la vittima. Era l'ultimo rimasto in vita, per esempio, di una esecuzione di un boss di Camorra nel 1975 avvenuta, di Gennaro Moccia, uno delle più efferati delitti di Camorra di tantissimi anni fa, ma a questa pista, come tante altre che la magistratura ha tentato in questi mesi di seguire per vedere di ricondurre a qualche traccia di ipotesi il delitto, niente, non sono riusciti a venire a capo di nulla. Oggi chiedono a tutti noi, a tutti i cittadini, ai napoletani innanzitutto, ma a tutti quanti, vedendo queste immagini, di dare una mano alla forze dell'ordine, ai magistrati, per tentare di instradare questo delitto su qualche possibile ipotesi. Altrimenti vuol dire che abbiamo la certezza che si può uccidere in pieno giorno, rimanere impuniti, a restare a piede libero malgrado il volto scoperto, un sorriso terribile sulle labbra, un gesto delle corna fatto mentre si scatta il grilletto. Allora vediamo cosa ci dite voi telefonando, se chiamereste oppure no. Gaetano da Napoli, prego, che ci dice? E che vi dico, posso? Certo, dica. Che vi dico, che ha ragione lo scrittore, là, se non sbaglio. Raffaele La Caprio, perché ha ragione, ci dica? Perché ha ragione, sì, perché se qualcuno avrebbe visto qualche cosa, certamente non parlerebbe, perché le persone che vanno in galera dopo pochi giorni, diciamo così, sempre vengono messi fuori. Mm. Automaticamente hanno paura che qualche ritorsione verso di loro. Certo. Cioè, non c'è l'anonimità, la persona non può dire niente, c'ha paura, questo è il discorso. Ma la polizia non c'è niente. Cioè, da Napoli, chi vive a Napoli e vede che persone su motorini che camminano a due, a tre, con figli, senza casco, senza niente, passa davanti alla polizia, la polizia non dice niente. Cioè, ma come può avere fiducia della polizia? Come può avere fiducia dello Stato, vorrei capire? Ha ragione, grazie Gaetano. Sentiamo Giuseppe da Napoli invece. Buongiorno signor Giannini. Prego. Buongiorno. Il discorso è proprio questo qua. Il punto è chiedersi quale sarebbe poi la prospettiva della persona che vuole collaborare. Perché l'anonimato, si sa, l'anonimato nelle procure non esiste. Quindi le fughe di notizie sono all'ordine del giorno. Poi una persona che decide di fare l'eroe, come dice lo scrittore, non deve solo tener conto della sua persona, ma certo, anche dei suoi familiari. Volendo anche mettere in conto questo, si partecipa a un programma di protezione, si individua il killer, lo si condanna, dopo 6, 7, 8, 10 anni il programma di protezione svanisce, lo Stato fugge, la persona dopo chi la tutela? Ottimo, Giuseppe da Napoli, queste sono domande concrete, poi avremo di nuovo un magistrato, tenteremo di avere da lui una risposta. Sergio da Genova, che ci dice? Buongiorno. Lei chiamerebbe? Senta, io guardi, telefono da Genova e le dico, io non chiamerei per un semplice motivo. In parte quello che volevo dire l'ho già detto prima, signor Gaetano, comunque volevo sviluppare un po' più velocemente il ragionamento. Ci dica. Io qua a Genova sicuramente chiamerei. A Napoli non chiamerei perché, guardi, io la prima volta sono andato a Napoli è stato nel 2002, no? Adesso ci vado abbastanza di frequente. Le dico la verità, a me è venuto da piangere. Sinceramente, la prima volta sono stato a Napoli, secondo che... Sergio, l'abbiamo persa, comunque abbiamo capito... È andata via la linea, secondo... Dico. Le stavo dicendo, io la prima volta che sono andato a Napoli, sinceramente, mi è venuto da piangere, perché ho visto una città completamente fuori controllo, completamente. E veramente dove ognuno praticamente fa quello che vuole. In un contesto del genere veramente la gente non si sente supportata. Però io il ragionamento che volevo fare è questo, cioè, e la gente secondo me è inutile che prendersela sempre con lo Stato, con le istituzioni. La gente a Napoli è veramente mal abituata, cioè ognuno fa quello che vuole. In un contesto del genere non può nascere nulla di buono. Lei per primo però dice che se fosse a Napoli non chiamerebbe, quindi è un po' in contraddizione con se stesso, però, perché... No, ma la gente non si sente supportata, perché... Vede però Sergio, se lei dice la gente non si sente supportata e poi dice però bisogna iniziare dal basso, delle due l'una o l'altra, perché se vogliamo che l'esempio dal basso, allora pur non sentendosi supportati e pur tenendo conto i terribili rischi esposti da chi ha telefonato prima di lei, uno deve dire io chiamerei, ma se lei mi dice io non chiamerei, come vede non ce la si può prendere come i napoletani, ma mi permetto solo così di interrompere, ma non per criticare, per ragionare tutti insieme, perché io per primo, a dire la verità, che pure ho una matrice napoletana in famiglia attraverso mia madre, io per primo mi porrei il problema lì. Io chiamerei di sicuro, ma certo facile fare l'eroe improprio, e poi tutti quelli che conosci, tutti i tuoi parenti, tutti, cosa diavolo succede? Perché io temo che le domande che abbiamo sentito prima degli ascoltatori sul rapporto di protezione che finisce, il nome che esce dalla procura, sono tutte cose terribilmente vere, questo è il punto. Grazie a Sergio da Genova. Gianfranco da Padova, l'ultimo ascoltatore, poi torniamo ai nostri ospiti. Prego Gianfranco. Sì, buongiorno. Per i motivi che sono già stati detti, purtroppo non si può collaborare con la giustizia, con lo Stato, con le forze di polizia. Io dico che come cittadino mi sentirei il dovere, se avessi visto, di farlo sapere. Siamo in un caso anche dove non serve fare l'identikit, perché il soggetto è già visto e stravisto dai mezzi televisivi. No? Certo, no, si tratta semplicemente di immaginare chi può essere, se qualcuno ha visto o ha qualche notizia di chi può essere, tutto qua. Cioè, se uno ha visto e conosce, può tramite terze persone, tipo un legale, tipo un notaio, tipo una persona di fiducia, far sapere alla giustizia chi è il soggetto. Certamente. No? Perché può anche succedere che questo soggetto nel frattempo sia stato anche eliminato dai suoi mandanti. Sì, sì, certo. Capisce? Certo. Quindi, cioè lei dice a chi è in ascolto, pensate all'ipotesi di magari farlo attraverso un professionista della giustizia, un avvocato, eccetera, eccetera, che vi tutela nell'anonimato. Questo è quello che lei sta dicendo. Mi sembra un ottimo consiglio. Ancora Maria Teresa da Milano. Maria Teresa, lei che farebbe? Chiamerebbe? Allora, se fossi sicura di rischiare solo la mia vita, chiamerei senza ombra di dubbio. Ma siccome purtroppo, come era stato detto già in precedenza, solitamente le ritorsioni avvengono su familiari, non mi sentirei di rovinare la vita della mia famiglia. Quindi questa è una cosa che magari non viene compresa quando si parla di omertà generalizzata. No, no, no, chiarissimo. Vai, io ringrazio anche Maria Teresa. Abbiamo Raffaele Cantone, che è stato magistrato della DDA di Napoli dal 99 al 2007, ora è magistrato di Corte di Cassazione. Le chiedo di fare insieme a noi, poi torniamo anche a chiederlo al direttore del Mattino e a Raffaele La Capria, una semplice riflessione. Come ha visto, la maggioranza netta, schiacciante delle telefonate, abbiamo chiesto a chi era in ascolto di dirci: voi chiamereste per rispondere all'appello della Procura di Napoli? La risposta schiacciante è: non perché non vorremmo, ma perché non si può, perché si rischia troppo, perché i familiari, perché il programma di protezione non funziona abbastanza, perché comunque non è tutelato l'anonimato. Per tutte queste ragioni no, non chiameremmo. Qual è la sua risposta, dottor Cantone? Allora, prima di tutto buongiorno. La mia risposta è un po' diversa. Prima di tutto io vengo da un'esperienza nella quale ho trovato persone che hanno avuto il coraggio di collaborare, certo pagando anche dei costi pesanti. Ricordo la vicenda di quella ragazza di Mondragone, Carmelina, che ha testimoniato per un omicidio. Gli esecutori di quell'omicidio sono stati condannati all'ergastolo con sentenza passata in giudicato. Carmelina, è vero, ha dovuto allontanarsi da Mondragone, ha dovuto vivere per un periodo sotto protezione. Poi per una serie di vicende oggi è tornata a Mondragone e vive a Mondragone. E quando Carmelina venne a rendere deposizione, la prima cosa che disse è che lei riteneva di doverlo fare soprattutto per la sua dignità personale. Quindi vorrei anche dire che ci sono tante persone che lo hanno fatto. Nella mia esperienza i numeri sono sicuramente molto piccoli, ma non sono del tutto inesistenti. Poi, sentivo un ascoltatore che prima diceva la possibilità di parlare con un notaio, con un avvocato, ma esistono anche le fonti confidenziali, cioè esiste la possibilità anche in via confidenziale di riferire notizie alla polizia giudiziaria. Ma mi spingo a dire che esiste, come dicono alcuni sms, anche le lettere anonime, pur di far sapere qualcosa alla polizia. Esistono anche le fonti confidenziali. Il nostro sistema, cioè una norma, l'articolo 203, se vado bene a memoria, che prevede espressamente che gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tenuti e hanno la possibilità di tenere nascoste le fonti confidenziali. Quindi voglio dire, in questo momento se qualcuno ha visto può parlare con una persona delle forze dell'ordine, la quale a titolo, diciamo specificando che lo vuole dire a titolo confidenziale, questa persona delle forze dell'ordine dovrà tutelare la sua identità personale. Ma se mi consenti, io volevo però dire una cosa, che la vicenda è secondo me sintomatica di una situazione della criminalità organizzata nel sud che è tutt'altro che sconfitta. Mi pare di no. Perché diciamo, io è un po' da troppo tempo che sento delle grandi indicazioni di ormai quasi totale eliminazione della criminalità organizzata al sud, e purtroppo non è così. perché a volte sull'onda emotiva si interviene in determinati contesti, per esempio con la militarizzazione del Casertano, si ottengono anche ottimi risultati, ma siccome la coperta è corta, si toglie da un lato per mettere dall'altro. Per esempio i problemi della criminalità a Napoli, di zone ormai franche, ma non dal punto di vista economico, dal punto di vista della criminalità, è un problema rilevantissimo. Io vorrei che qualcuno andasse a vedere a Scampia come è ripreso lo spaccio a cielo aperto. Quindi voglio dire, la vicenda deve far riflettere soprattutto per quello che è la situazione di alcune zone del meridione e per quello che dovrebbe essere l'intervento straordinario per eccellenza. Cioè la realtà è che non si riesce ad avere intensità crescente diffusa in tutti i posti del territorio, per capirci, dove c'è il fenomeno. Come dice dottor Cantone, la coperta è corta, se ci si concentra da una parte ci si gira dall'altra e tutto riprende come prima. Ora le informazioni sulla circolazione stradale, poi chiediamo a Raffaella Capra, al direttore del Mattino, che cosa ne pensano di questa coperta corta. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci in studio, bilancio delle telefonate e degli sms dei nostri ascoltatori. Prevalgono coloro che dicono l'appello della Procura di Napoli, che diffonde il video di questo omicidio avvenuto in pieno giorno da sconosciuti che dopo mesi non vengono identificati. La maggioranza delle risposte dice: noi purtroppo non collaboreremo. Allora, domanda al direttore del Mattino, Virman Cosenza. La coperta troppo corta, diceva il dottor Cantone, ex magistrato della DDA di Napoli, e il responso dei napoletani, ma non solo dei napoletani. Se si sommano le due cose, c'è di che disperare, però. Beh, c'è di che disperare, ma come sempre è meglio usare la testa e quindi la ragione. Oggi noi raccontiamo sul giornale una testimonianza importante, che per esempio è quella del proprietario dell'antica caffetteria dei Vergini, appunto dove è avvenuto l'omicidio, di Mariano Bacio Terracino. E giustamente il proprietario che cosa racconta? Che innanzitutto un dato di fatto, cioè il fatto che il killer abbia agito a volto scoperto con un semplice cappellino, è dà la matematica certezza che non era della zona. Secondo punto, potrebbe essere stato, oppure era anche un incensurato, cosa che ovviamente complica un pochino la ricerca, oppure a sua volta, come ha ricordato anche un ascoltatore in trasmissione, può essere stato ammazzato. Ma soprattutto a me un particolare mi colpisce nelle cronache che appunto riportiamo. Dice il proprietario: ci hanno preso l'hard disk, siamo stati costretti a sostituirlo spendendo altri 2.000 euro. Ora, quando un cittadino che ha di fatto subito comunque non solo un trauma, ma uno shock, come il proprietario di questo bar, che certamente non ha alcuna responsabilità nell'omicidio, che deve collaborare e probabilmente collabora pure anche perché tra virgolette è costretto a farlo visto la modalità del delitto, poi alla fine come forma di collaborazione c'è il versamento di 2.000 euro per ricomprare l'hard disk perché la procura... è veramente il paradosso, insomma. Ecco, appunto. Io rifletterei su questo aspetto, cioè non è che lo Stato non si manifesti a Napoli, perché è vero che molti ragazzini camminano senza casco, che non c'è la sanzione, spesso questo è vero, ma è pur vero che io ho visto tantissime ronde, ho visto agenti di polizia sguinzagliati nei posti più impensabili, quindi non so, probabilmente non è, cioè si può fare di meglio e questo è certo, ma il problema non credo che sia semplicemente la manifestazione fisica, quasi corporea, dell'agente di pubblica sicurezza. Il problema è altro, è la presenza dello Stato in luoghi invece dove è assente, ma in manifestazioni come questa, come l'hard disk del bar. Questo mi pare il problema essenziale. Vogliamo, tra le molte altre telefonate che continuano ad arrivare, ne pesco una a casa. Fabio da Napoli, sentiamo ancora. Fabio, lei che farebbe? Chiamerebbe? Salve. Io non chiamerei, sicuramente. Non vorrei fare retorica, però è sempre il suo discorso. La mia curiosità, invece, è capire in quanto tempo è arrivata la forza dell'ordine, perché dai filmati che abbiamo visto, ce ne sono tanti, però in realtà non si riesce a capire. Ne ho visto uno lungo 5 minuti e qualcosa. Cioè, in quanto tempo sono arrivati? E parliamo della sanità che in una zona di Napoli centro, io non ho visto nessun poliziotto, cioè in quanto tempo questi sono arrivati? E le voglio dire di più, tenga conto che io sono più o meno in quartiere Secondigliano, dove anni fa, dove c'è stata quella famosa scia di sangue tra le lotte di scissionisti. E dì da lei la coperta è corta oppure no? Cioè nel senso che le forze dell'ordine... Venga un poco a vedere. Cioè, ma dove sta sta polizia? Chi è la polizia? Grazie Fabio. Raffaele La Capria. Posso fare alcune osservazioni che sembra che non c'entrino con tutto no, questo. No, no, no, faccia, faccia, certo. Allora, la prima osservazione che faccio è che mentre stiamo parlando di un fatto così terribile, all'improvviso ci interrompiamo e c'è la pubblicità, si parla d'altro. Quindi questo, diciamo così, fa capire che c'è come una specie di indifferenza che sta nel mondo delle cose. Cioè la pubblicità è necessaria, di qualunque cosa si parla, pure della morte di tua madre, ti devi fermare perché la pubblicità manda avanti la televisione. Questo non le sembra un dato interessante? Altro che, lei ha ragionissimo su questo secondo me. Questo è uno. L'altra cosa che dico è che la differenza tra questa situazione e tutte le altre è che questa volta è stata messa in, sbattuta in faccia alla città una cosa alla quale la città può reagire, ma non uno. Se invece di uno sono 100, 1000, 10.000, ecco che tutto viene, diciamo così, ridimensionato, pure la paura di chi accusa, non è così? E questo ce la dice lunga sul fatto che oggi a Napoli la differenza tra la società civile e la società criminale si va sempre più assottigliando e certe volte è inconsapevolmente oltrepassato il limite, perché tu non sai che quello che ti sta di fronte, per esempio stai facendo una trattativa, un acquisto, una compra di un palazzo, che ne so, stai comprando del cemento, se sei un industriale, tu non sai che se chi tratta con te è un criminale, è uno che ha, diciamo così, è un prestanome, oppure è una persona normale. Nel 90% dei casi il dubbio di quelli che fanno questi affari, che siano dei criminali, quelli che fanno questi affari o che siano una longa mano per il riciclaggio della camorra, c'è. Insomma, voglio dire che c'è come una confusione civile in quella mia povera e amabile e bellissima città, che questo fatto di aver fatto vedere a tutti, dichiaratevi, avete visto, siete 1,5 milioni di abitanti, se siete 100, 1000, 10.000 è fatta. No, questo ancora non si è verificato. Sì, né 10, né 100, né 1000, né 10.000. Penso che anche in altri tempi forse ci sarebbero state reazioni diverse anche dalla politica. Quello che secondo me Raffaele La Capri, io ero sicuro che lui ci avrebbe aiutato in questa riflessione, coglie, è che l'indifferenza sta in noi tutti oramai, non solo nei napoletani che sono immersi nei fenomeni che ci dicono le telefonate, sta in noi tutti, noi per primi, noi operatori dell'informazione. Cioè, io sono molto convinto di quello che ha detto Raffaele La Capri. Cantone, una domanda con una risposta flash, ha detto coperta corta, perché siete pochi voi, poche le forze dell'ordine, poche, che cos'è che continua a mancare? Ma io credo che continua a mancare un intervento che sia strutturale, basta pensare a interventi fondati sulla logica dell'emergenza, bisogna intervenire tenendo conto che non è che quando si spara c'è l'emergenza, spesso l'emergenza c'è quando non si spara. Io credo che bisogna mettere al primo punto dell'agenda politica il problema della criminalità nel meridione e non pensare che con 20 arresti, 30 arresti, perché i risultati nell'ultimo periodo sono stati eccezionali, ma come dimostrano questi episodi, insufficienti. Allora non ricordarsi delle emergenze, intervenire in modo strutturale e pensare che il problema della criminalità al meridione non è un problema del meridione, ma è un problema di tutta l'Italia. Grazie. Sembra banale. No, ma è così. Grazie dottor Cantore, grazie al direttore del Mattino Virma Cusenza, grazie a Raffaele La Capri, al procuratore capo di Napoli Gian Domenico Lepore che abbiamo avuto all'inizio con noi, che ci ha spiegato il senso di questa decisione straordinaria di questo filmato. Continuate a vederlo e se qualcuno si decide a collaborare è meglio. Grazie anche a Paolo Colleoni in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. La linea al Generale Radio, appuntamento a lunedì.